Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. Quello che sta cominciando in questi minuti a Bruxelles è l'ultimo Consiglio europeo a guida italiana. Noi ci colleghiamo in diretta da Bruxelles con il nostro Sergio Nava. Sergio. Sì, buongiorno da Bruxelles. Un passo avanti c'è stato. Il piano Juncker va nella nostra direzione di considerare gli investimenti fuori dal patto di stabilità e crescita. Così poco fa il premier Matteo Renzi, appena arrivato nella capitale belga, ha commentato uno dei due temi caldi del summit che si apre tra un'ora circa al palazzo Justus Lipsius. Quali investimenti, se solo quelli legati al fondo strategico da 315 miliardi, come sembra ormai assodato, o anche quelli cofinanziati a livello nazionale sui fondi strutturali, tema su cui spinge l'Italia? Beh, questo è tutto da vedere. Se ne parlava al vertice, ma senza farsi troppe illusioni, la Germania vigila ancora e parecchio sul rigore nei conti. Renzi ha commentato anche l'accordo di libero scambio Stati Uniti-Unione Europea, il TTIP, definendolo un'opportunità per l'Italia. L'intesa deve andare avanti ed essere collegata a un'altra battaglia italiana, quella del Made in, ha detto il Premier. Renzi interverrà a breve all'Italian Innovation Day, qui a Bruxelles, poi il prevertice socialista. Novità importanti, seppur attese oggi anche sul fronte delle sanzioni comunitarie per la crisi ucraina, gli ambasciatori dei 28 hanno deciso lo stop agli investimenti nel territorio occupato della Crimea, uniti al divieto di offrire servizi turistici, al blocco dell'export di alcuni prodotti, nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia. I 28 leader daranno l'imprimatur a queste nuove e ultime sanzioni, ma soprattutto dovranno discutere stasera il futuro dei rapporti con la Russia, anche alla luce delle turbulenze economiche che stanno scuotendo Mosca. Alle 15 via summit, menu light per i 28, al punto che non si esclude neppure una chiusura del vertice già a mezzanotte. È tutto. Grazie a Sergio Nava, che naturalmente ritroveremo nei prossimi GR24 per raccontarci questo Consiglio europeo, l'ultimo a guida italiana. In Europa c'è uno spirito di concessione nei confronti di quelle stesse forze che la minacciano, l'ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu, incontrando la stampa estera nel giorno in cui il Parlamento di Strasburgo ha approvato una risoluzione che sostiene il riconoscimento dello Stato della Palestina sulla base dei confini del 67, appoggia la soluzione a due Stati con Gerusalemme capitale ed esorta la ripresa dei colloqui di pace. Molti in Europa, ha aggiunto Netanyahu, chiedono ad Israele di fare concessioni che metterebbero in pericolo non solo la nostra sicurezza, ma anche paradossalmente la stessa sicurezza europea. Questa mattina nuova sentenza della Corte di Giustizia Europea, un ovulo umano manipolato ma non fecondato può essere brevettato a fini industriali. I giudici europei hanno stabilito che per essere qualificato come embrione umano, un ovulo umano non fecondato deve necessariamente avere la capacità intrinseca di svilupparsi in essere umano. Quindi per la Corte un ovulo attivato per partenogenesi che abbia inizio un processo di sviluppo non va considerato come un embrione umano. La Commissione europea guarda con preoccupazione alle vicende greche. Il primo tentativo per nominare il nuovo presidente della Repubblica greco è fallito. 165 voti sui 200 necessari non sono un buon inizio. Il prossimo voto si terrà il 23 dicembre a mezzogiorno, le 11 in Italia, sempre con la soglia dei 200 voti. L'appuntamento decisivo è la terza e ultima votazione, che si terrà il 29 dicembre e dove la soglia si riduce a 180 voti. In caso di fallimento però si andrà al voto anticipato, un evento che spaventa la Commissione europea, che ha invitato i greci tramite Jean-Claude Juncker e Moscovici a votare nel caso a favore di partiti pro-Europa. Un segnale di come Bruxelles tema il rischio contagio nel caso dovesse vincere Syriza, la sinistra radicale che vuole uno sconto sul debito pubblico, rimettere la tredicesima ai pensionati, alzare l'esenzione fiscale da 5 a 12 mila euro. Vittoria Darol, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.